24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Tutte le volte che parla recupero un punto nei sondaggi. D'Alema. Un po' è così, l'abbiamo detto anche ieri. C'è un modo molto veloce per far recuperare nei sondaggi un qualsiasi presidente del Consiglio, qualsiasi, anche il sottoscritto. Farlo attaccare da Massimo D'Alema. Effettivamente, dal punto di vista, lo dicevamo anche ieri, e Renzi si è presentato a Ballarò così. D'Alema. D'Alema. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. Ogni volta che parla guadagno un punto nei sondaggi. E vabbè, questo è il clima all'interno del Partito Democratico. Quando sono le 6:32 minuti, in questo mercoledì 1 ottobre. Allora, voglio subito... Paola Saluzzi, buongiorno. Ciao Paola. Buongiorno, buongiorno. Certo, meno male che si vogliono bene, eh? Ecco, tu ti sono buoni, falli essere pure cattivi. Tu hai questo tenore, sei sempre giustamente sorridente, ma oggi è una giornata un po' così, sai, per noi. Una giornata un po' mesta. So. Come so? No, prego, vai. Cosa sai? No, giornata un po' mesta perché... No, perché? No, adesso mi devi dire che cosa sai tu. No, allora, prima di tutto, buongiorno a tutti, ben alzati. qua ci sono fonti che parlano. Comunque, voglio subito convocare anche Luca Dini, il direttore di Ventifer. Luca, buongiorno. Buongiorno. Direttore, buongiorno. È una giornata un po' mesta. Tra l'altro chiedo scusa, ieri Luca Dini neanche gli ho detto che oggi ci saremmo sentiti, ma ormai lo chiamiamo, lo sbrandiamo. Ma noi andiamo di automatico il mercoledì, Alessandro. Allora... Pietro La Corte, che sei in regia, per favore mettimi una base, dai, un momento un po' straziante. Cosa ride? Miriam Lucchetti oggi ci lascia, no, nel senso che sta con, no, nel senso, lunga vita Miriam Lucchetti. Miriam Lucchetti oggi verrà spostata su altre trasmissioni. Paola, puoi dire qualcosa? E noi perdiamo una gamba del tavolo. Perdiamo praticamente una potenziale copertina di Vanity Fair. Ecco, diciamo. Ma guadagniamo un'altra potenziale copertina di Vanity Fair. Uno che starebbe vicino bene ad Amal Alamuddin. Ecco, per dire. Ah. Direttore, nel senso che Miriam Lucchetti da oggi non fa più parte. No, dai, fa parte sempre di Radio 24. Ma non sarà qui con 24 mattino, sarà su altri programmi. Che straziante questa. Una cosa è certa, la ringraziamo per come ci ha svegliato in maniera fantastica per tutte queste, in questi mercoledì mattina, quantomeno sì, io sì, parlo sì, certo, per certo. Noi, ecco, insomma, ecco. Poi le nuvole la si segue su Twitter. Certo. E introduciamo Lorenzo Nespoli, un uomo che starebbe bene veramente vicino ad Amal Alamuddin. Lo segnalo insomma, con questa sua barba così un po' curata, eccetera. Va bene? Siete contenti? Paola, te lo dico così. Io voglio sapere a che ora si sveglia da oggi in poi Miriam Lucchetti. Ecco, questa hai provocato in questo momento un'esultanza come a un gol quando io vedevo Ibrahimovic segnare ai bei tempi da parte di Miriam Lucchetti, credo non prima delle 8. Questo è il vero motivo di conquista, insomma. Che dobbiamo dire? Alle 6:35 minuti abbiamo fatto questo momento cuore. Possiamo aprire il Parlamento? Sì. Apriamo il Parlamento. Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Grazie. Va bene, basta. Colazioni non più pagate a Miriam Lucchetti. Questo è il dato di fatto da domani. Evviva. Allora, di che vogliamo parlare, Paola? Hai sentito Renzi su D'Alema? Sì, questo è uno dei temi. Oggi 1 ottobre, San Remigio, un tempo molto lontano, noi si andava a scuola dal 1 di ottobre, qui invece la scuola è iniziata molto prima, pare non siano neanche quasi mai andati in vacanza, è una guerra molto abbastanza aperta, quantomeno ha questa caratteristica, insomma, molto leale, molto aperta. Sì, molto leale. Allora, Luca Dini, tu con chi stai? Con Renzi o con D'Alema? Subito, visto che è una guerra. Con Renzi, sì, sì. Ma no, anch'io in questa guerra. Ha dimenticato di aggiungere Bagnasco e Camusso, che anche loro aiutano, diciamo. Hai capito, anche Bagnasco e Camusso, sindacati e la CEI, diciamo, anche se la CEI adesso non c'è più Bagnasco, chi è che c'è? Galantino, mi pare. Però insomma, il concetto è vescovi e sindacati. Sì, è vero, ha parlato Bagnasco. Sì, però questa idea dell'uomo sembra un po' solo contro tutti, no? Lui dice: ho il paese dalla mia parte, non ho certo questo vecchiume, lo dico io, no? Questo vecchiume del paese, è una politica che pagherà, secondo te? Semplificando in modo brutale, è così, però. È così che, secondo me, è per questo che io credo che l'avrà vinta. L'avrà vinta. È una politica è anche un po' rischiosa, magari. Non so, tu Paola come la vedi? Così aperta come competizione, definiamola così, politica. A mia memoria forse non si era mai vista, probabilmente perché prima la politica era anche sufficientemente ipocrita per non aprirsi, parlo all'interno di uno stesso partito, attenzione, per raccontare così lo scontro in famiglia. Bisogna aspettare a questo punto un tempo non troppo lontano per vedere che risultati porterà Renzi, però rischia, tra virgolette, di farcela a cambiare tutto all'interno del suo partito. Sto sempre parlando di braccio di ferro interno al PD. Sì, certo, adesso partita apertissima. Apertissima, adesso in realtà non si capisce. Io, ogni volta che lui arriva io guadagno un punto, ogni volta che lui parla io guadagno un punto, e non stai parlando del tuo avversario politico. No, stai parlando di D'Alema, effettivamente. Stai parlando del tuo padre nobile, diciamo così, dentro padre, no, del no, ma che no, in questo momento Renzi, se ci sta ascoltando, cosa che non starà facendo, starà lavorando già, padre nobile. Sarà già lavoro, ma no, intendo dire. Voleva dire padre mobile forse, sì. Non diamo queste patenti ad D'Alema, che poi Renzi si arrabbia. Tra l'altro, ecco, c'è questa novità sulla quale, che sta prendendo piede sempre giorno dopo giorno, la questione del TFR. Io non ho ben capito che posizione ho, perché la cosa più semplice mi verrebbe da dire: ma volete darci più soldi, caro governo? Fate qualcosa per abbassare le tasse, questo è il modo più veloce, perché questa cosa del TFR anticipato in busta paga, come aveva scoperto il Sole 24 Ore, ma intanto diventiamo un po' più ricchi con soldi nostri. Cioè, è un po' un magheggio, o no, Luca? Cioè, ci anticipano dei soldi, ma che sono nostri, saranno nostri. E quindi, voglio dire, semplicemente ce li danno prima. E poi, nel momento in cui ce li danno, sono tassati di più rispetto a quanto verrebbero tassati se ce li dessero in un ipotetico futuro. Per cui non l'hai detto bene, ipotetico futuro. Ho capito, cos'è? Dobbiamo perdere anche il TFR. Cioè... No, sai, che fondamentalmente, secondo me, sei più contento di averli adesso che vederli chissà quando, anche perché insomma c'è sempre chi pensa: ma me li daranno? Sì, però ripeto, me li tassano di più, per cui non lo so. Poi c'è anche questa questione che, se dovessero dire a tutte le imprese anticipate il TFR, mica sono soldi che le imprese hanno, probabilmente, nel senso che li utilizzano per fare, non lo so, cioè non mi sembra una cosa. Paola, però è anche giusto, mi che sono svegliato una con persona... questo dubbio. No, ma questo è giusto, è corretto, io non ribadisco tutti maledetti e subito, nel senso che poi decido io se farne, pur tassati un po' di più, pur quello che vuoi, decido io se farne per esempio una pensione integrativa durante la mia vita lavorativa, se spenderli per mio figlio a scuola, se. Certo, per le imprese non sarebbe un motivo di allegria, su questo non ci sono dubbi. magari in questo momento ci sono persone che saprebbero fare un uso diverso, ecco. Sì, questo sì, ripeto, la questione della tassazione non è secondaria, secondo me, cioè me li anticipano e va bene, me li danno appunto tutti maledetti e subito, come dici te, però me li tassano di più, però ho un capitale da parte, però boh, non ho una convinzione ancora su questo, dovrei studiare un po' di più. Sentiamo proprio Renzi sulla questione del TFR. Il TFR così com'è c'è praticamente solo in Italia. La preoccupazione è che se diamo il TFR subito in busta paga ci sia un problema di liquidità per le piccolissime imprese. Le grandi ce la fanno. Allora, sulla base di questo stiamo ragionando del fatto che l'ABI, l'associazione delle banche, possa dare i soldi che arrivano dall'Europa, i soldi, quelli che chiamiamo i soldi di Draghi, alle piccole imprese per garantire la liquidità. Questo garantirebbe al lavoratore di avere un pochino più di soldi da spendere. Vabbè, il concetto è questo, Paola, cioè dare un po' più di soldi, però le piccole imprese effettivamente non avrebbero dei problemi di liquidità. Diano quei soldi che non costano nulla ormai alle banche, cioè io credo che Draghi dovrebbe solo più stamparli i soldi a questo punto. Allora, forse questa potrebbe essere una via d'uscita. Ribadisco, siamo l'unico paese dell'Ocse che non si sia ripreso, cioè tutti gli altri, bene o male, dritto per storto, stanno risalendo. Noi ancora no. Allora, effettivamente, con i soldi che capirei, parlo io, che meno male che non faccio il banchiere di professione. Soldi a tutti che darebbe appena entra uno in banca, un mutuo, oh, si tenga, dette 10.000, pam! Sarebbe una meraviglia, sarebbe una meraviglia. Sì, falliremmo in tre mesi. Però in un'ora, io come banca chiuderei in un'ora, però farei tante cose belle. Però sai che allegria, falliremmo in tre mesi, ma sai che tre mesi di allegria. No, noi siamo in recessione, siamo in deflazione, il PIL è stimato allo 0,3% in meno a fine anno, disoccupazione giovanile ai massimi livelli, mi fa male anche un po' la schiena, insomma ecco, siamo e buona giornata a tutti, ecco, questo è il concetto. Sei positivo oggi? Sì, no, vabbè, sono stato positivo, direttore. Sono sì, come direbbe Cooperlo, qui non ci sono volatili notturni, come direbbe Cooper. Così ha detto, non ci sono volatili notturni. Sapete che lui è uno molto tutto compito, tutto. Vabbè, a proposito, c'è il Barbagianni. A proposito, sentite sempre Renzi su Crozza. Che è Renzi? Io volevo ringraziare pubblicamente Cooperlo per il suo intervento di ieri in direzione. Grazie Cooperlo, io vi giuro, non ho mai dormito così bene come durante l'intervento di Cooperlo. Ecco, appunto, questo era Cooperlo, non ci sono volatili notturni, questo gli ha detto ieri a Renzi in direzione. Allora, io, sapete che ci hanno forse preso per, Paola, forse ci hanno preso per Sì, proprio stai pensando la cosa giusta. Hanno messo ieri il tetto agli dipendenti di Camera e Senato, 240.000 euro. Ragazzi, mi sa che ci hanno fregato anche stavolta. La Boldrini ha detto che è una rivoluzione mai vista. E perfino il questore della Camera, Stefano D'Ambruoso, uno dei tre questori, quelli che controllano i conti, ha detto: non è vero, calcoli alla mano, si potrà arrivare anche fino a 360.000 euro per alcuni dipendenti. Il tetto. E perché? Ma perché hanno escluso delle indennità? Ma una roba! Ma sai che in Italia c'è sempre le eccezioni. Hanno escluso dal tetto alcune indennità ulteriori, poi non è il netto, è il lordo. Cioè, ci hanno fregato, così pare, non lo so. Sì, magari basterebbe una calcolatrice, grande calcolatrice. Infatti D'Ambroso ha fatto così, ha preso la calcolatrice, ecco. Ha detto no, si poteva fare di più, i tagli sono modesti, si potrà arrivare fino a 360.000 euro. Oh, l'ha detto il questore della Camera, cioè... Rivedessero i calcoli. Rivoluzione mai vista, nel senso che non la vedremo. Esatto, la rivoluzione mai vista, cioè non ci sarà mai il tetto a 240.000 euro. Che dobbiamo fare? Comunque questa la devo studiare bene sui giornali, però vedi, alcuni giornali dicono i finti tagli alla Camera, vedi il giornale, anche il Fatto Quotidiano, pure il questore dice che sono finti i tagli alla Camera. Si capisce niente, ragazzi, che dobbiamo fare? È una giornata. Basta farli veri, come succede da altre parti, no? Devono sì. tagliare una cosa, allora si taglia, la luce e il gas sono aumentati. E si tagliano? Aumentano, sicuramente aumentano, e allora sicuramente si taglia, ma questo senza nulla voler andare a tagliare nelle tasche di chi lavora, insomma. Che però... devi fare? Comunque, caro Lucadini, preparati dopo il traffico, perché non solo ci lascia Miriam Lucchetti, non solo c'è la recessione, la deflazione, la disoccupazione giovanile ai massimi livelli, slitta il pareggio di bilancio, ma oggi, ed è una protesta formale, nella mazzetta non mi è stata consegnata la copia di Vanity Fair. Ma no! Come ti spiegherai? Attenzione, c'è un motivo. Attenzione, il traffico. E qui dentro non ci sono volatili notturni, almeno apparentemente. 24 mattino. Quanto grande è sta cagata del matrimonio di George Clooney? Ma è veramente una minchiata mondiale. Io volevo dire basta con queste pagliacciate di Renzi, siamo stufi di vederlo ogni giorno in televisione, poco ci manca che ce lo trasmettono pure dal cesso. Com'è possibile che noi italiani siamo in mano a personaggi così smargiassoni, così incapaci, inconcludenti, inadatti? La carriera di Massimo D'Alema, in arte è chiamato anche la volpe del tavoliere, è iniziata negli anni 60 a Pisa come lanciatore di Molotov. Stupendo, dopo una settimana con D'Alema sugli stralli, con Bersani che aveva ripreso il bolognese stretto, che sembrava che volessero far che, maggioranza assoluta a favore di Renzi. Ma perché non stanno a casa, povera gente? E senta, gli par che basta un furcone, lui è una bomba e asci per asci. Basta Nongi, vi migliasse un bruciaculo, basta Nongi, vi migliasse un bruciaculo. Paola, sintetico, ma... Non lo so, l'editoriale come sempre del nostro ascoltatore è efficace. Attenzione, perché c'era un messaggio iniziale un pochino, ma qua ecco, è svelato ecco. L'arcano, caro Lucadini, in realtà Vanity Fair uscirà domani, perché? Perché usciamo con la foto di con l'esclusiva vera delle foto di Clooney del matrimonio, quelle che l'ascoltatore ha giustamente definito. No, come giustamente, direttore? No. Legittimamente. Anche se aggiungo che questa, come l'ha chiamato lui, cagata pazzesca, ha fatto arrivare a Venezia in 3 giorni quello l'indotto, il lavoro e i soldi che non sono arrivati in 10 giorni di mostra del cinema. Questi sono i calcoli. Oh, caro ascoltatore, avranno anche. Per non parlare di quello che farà l'industria dei matrimoni stranieri in Italia, che ormai diventa una voce importante del PIL. E certo, perché adesso tutti diranno: voglio andarmi a sposare dove si sono sposati George e Amal. Amal. Ti piace Amal, Paola? Saluti. Provi un po' di invidia per Amal. Ma no. Sai che no, molte donne anche qui in redazione. No, ma invidia nel senso per la sua eleganza, la sua. Hai visto come saliva sul motoscafo? Perfetta. Quando hanno scritto una first lady, una papabile first lady, adesso indipendentemente se vorranno intossicarsi la vita con la politica, sarebbe perfetta. Perché è una adesso... donna bella, bella tutta. No, perché ma fammi capire Lucadini, c'è la possibilità che George Clooney voglia diventare presidente degli Stati Uniti? Ma sai, lo dico in fascinazione, prima governatore, poi presidente, non so se è una... governatore, vabbè. Sì, deve passare, deve prima fare qualcosa. Prima deve California, iniziare, che ne so, in California, ma no, me lo vedo un po' più democratico lui, no, George Clooney? Però là c'è, insomma, l'inizio... Da Hollywood, Hollywood, canne a Hollywood per tutti, non lo so, me lo vedo un po' così, un po' democratico. Vabbè, quindi domani Vanity Fair sarà domani in edicola con l'esclusiva del matrimonio di George e Amal. Comunque è vero che ha portato un mare di soldi, un mare di comunicazione diretta e indiretta, E poi senti, sono belli, si occupano di diritti umani, hanno i soldi, se li sono spesi in un matrimonio fantastico, hanno fatto benissimo, ma Dio benedica che sono venuti a sposarsi in Italia. Evviva, evviva, pensa Elisabetta Canalis come la pensa in questo, evviva, evviva, vabbè, allora io però... Si è sposata anche lei, effettivamente, vabbè, ma io ho una voce, che tutti i giorni devo sentire, quando posso sentirla la voglio sentire, quella del nostro ministro Maria Elena Boschi. Ma credevo il contadino di Terni. No, vabbè, dopo anche... Il contadino, ma per prima c'è Maria Elena Boschi, sentite il ministro. Sì, io mi considero di sinistra assolutamente. I valori della sinistra di oggi sono quelli del cambiamento. Senti, a mio Paolo, avviso. Ma senti, essere di sinistra significa senti non essere come suonano le consonanti del passato, della memoria, ma in qualche modo anticipare il futuro, lingua, costruire il paese dove si suona, ma riformisti, cioè, per l'appunto. Paola. Sì, certo. No, sì, va benissimo, guarda, già noi abbiamo il nostro collega a Sky, di cui non svelerò mai il nome, che è seduto proprio a fianco a me, che praticamente va in estasi ogni volta che appare la Boschi, e allora va benissimo, no, certo. Senti, su D'Alema, senti la Boschi su D'Alema, ma non lo so, su qualcosa, ma non è importante tanto su che cosa. Forse D'Alema rivendica il copyright del dialogo con Berlusconi e con Forza Italia, perché il primo ad aver fatto una bicamerale con Forza Italia fu proprio D'Alema, quindi... Copyright, direttore, come ha detto copyright? Copyright. E beh, insomma... La zappa ci vuole, la zappa da 7 chili! Vabbè, sono stato subito riportato alla realtà. Sai cosa ti stavo per dire? La vecchia pubblicità dove c'era una splendida Annalisi, con quella bocca lei può dire ciò che vuole. Come D'Alema ha detto di Renzi? Che sembra D'Alema, non te la ricordi, detto sembra Virnalisi, con quella bocca può dire ciò che vuole. Vabbè, non dicevo, allora, in altra maniera, vabbè. Abbiamo capito che la copertina di Vanity Fair domani mattina sarà loro. Immagino sono ormai la corsa a comprarsi, sono loro. Mentre tu, Paola Saluzzi, che fai oggi? Che fai? Chi c'hai, un volatile notturno in onda? Non contiamo di avere volatili notturni, non contiamo di avere uno zoo, quantomeno. Io però la divisa con gli alamari e la frusta me la porto. Va bene. Di che parli? Di politica. Politica e lavoro. Noi stiamo occupandoci moltissimo di lavoro, nel senso che facciamo raccontare a chi il lavoro non ce l'ha come gli stiano andando le cose. Ah no, occupandosi di lavoro temevo che non andassi in onda oggi. No, vabbè, battutaccia. Ospiti nessuno. Va bene. Grazie a Paola Saluzzi alle 3. Grazie a Mine Lucchetti, grazie a Luca Dini, Lorenzo Nespoli, il nostro nuovo ingresso, domani in copertina di Vanity Fair vicino ad Amal. Basta annunci, vivi gli asso un bruciaculo. Basta annunci, vivi gli asso un bruciaculo. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:18 minuti. Allora, cari ascoltatori, lo sapete che siamo nel pieno della 74esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché per l'abolizione delle province. E siamo nel pieno, e chissà, perché ormai volge quasi al termine la 74esima settimana. Sarà davvero decisiva? Lo scopriremo tra due giorni, se no ci sarà la 75esima, e con lo solito ottimismo noi l'attendiamo fiduciosa. Intanto oggi ci occuperemo, lo abbiamo fatto la scorsa settimana, vi avevo promesso che ci saremmo tornati sul tema della prostituzione. Perché? Perché ci sono proposte davvero contrapposte. Avremo con noi sempre l'onorevole Gigli, colui che per il gruppo Per l'Italia propone fino al carcere per i clienti delle prostitute, come succede in Svezia. E dall'altra parte c'è la Lega che, come sapete, invece dice no, bisogna addirittura legalizzarla la prostituzione e farne una fonte di guadagno con le tasse. E allora due visioni davvero distinte che metteremo faccia a faccia. Questo alle 8:15 avremo Gianluigi Gigli, deputato per l'Italia, e la senatrice Bisinella per la Lega, ma vedremo anche come funziona. In Svezia, appunto, avremo un sindaco invece che ha emesso ordinanze contro clienti e contro le prostitute per multarli, insomma, il tema è quello. Intanto andiamo a sfogliare i giornali. In questo mercoledì 1 ottobre cominciamo dai titoli. Il Sole 24 Ore apre così: recessione, deflazione, l'Italia rimane bloccata. Per il Corriere della Sera lo stesso tema: l'Italia arretra, conti da rivedere. Repubblica, lavoro, i ribelli PD all'attacco di Renzi, il PIL giù dello 0,3%. Per il Messaggero, manovra, più deficit e tagli. La Stampa, Renzi, grazie a bonus e TFR, 180 euro in più in busta paga. Mentre per Libero, vantaggi e fregature del TFR in busta paga. E anche il Secolo XIX, dal TFR 100 euro al mese è l'annuncio di Renzi. Avvenire si concentra su questo tema, PIL ancora negativo, Renzi, TFR in busta. Per il Giornale però il titolo è questo: occhio, Renzi tentenna. Mentre il Fatto Quotidiano si concentra ancora sul patto del Nazareno, il partito unico c'è già, PD e Forza Italia, i voti fotocopia. Questo è il titolo di prima pagina. Ma io voglio partire dalla lettura di alcuni articoli in primo piano, soprattutto un articolo, una storia, e ci sono delle storie che a volte sui giornali vengono raccontate, io ve le segnalo perché andrebbero lette. Sono belle perché vanno lette così come sono. È la storia, per esempio, che racconta oggi Repubblica, lo fa a pagina 23, l'articolo è di Giuliano Foschini, il titolo è questo: io che vivo in auto davanti a scuola per aspettare mia figlia che non cammina più. È la storia di un meccanico in provincia di Bari, si chiama Gaetano Di Gregorio, che ogni giorno accompagna sua figlia affetta da una malattia degenerativa a scuola e la attende tutto il giorno in macchina fuori dalla scuola. Lui ha lasciato tutto, ha lasciato il lavoro, dice: io sono qui, voglio che lei mi possa vedere in qualsiasi istante. E racconta a Giuliano Foschini, la storia è di Santeramo, in provincia di Bari. Esiste una scuola nella provincia d'Italia, qui giù a Bari, nel cui cortile tutti i giorni dalle 8 alle 13:30 è parcheggiata una vecchia Jeep bianca, coi paraurti arrugginiti, finestrini abbassati, una giacca appesa per fare ombra, un giornale accartocciato sui sedili di pelle scorticati, qualche foglio sparso, la radio sempre accesa. In quel posto vive una straordinaria storia d'amore. Questa: mi chiamo Gaetano Di Gregorio, sono un meccanico. Lei si chiama Claudia ed è mia figlia. Frequenta questa scuola da più di un anno, vive su una sedia a rotelle. Ha una malattia rara che non sanno che cos'è, come si chiama, da dove viene, come si cura. So soltanto che un giorno respirava, camminava e ora invece. Frequenta questa scuola da 2 anni. Quest'anno non abbiamo fatto nemmeno un'assenza, lei è dentro che studia, lì. Fa quello che devono fare le ragazzine della sua età e io l'aspetto qui fuori. Se ha bisogno di qualcosa ci sono, ma anche se non ci fosse quel bisogno, a me basta sapere che la mia presenza qui le dà sicurezza. Sì, passo tutta la mattinata qui, in questa macchina. Ho lasciato il lavoro e mi chiedono come faccio, perché lo faccio. Ci ho pensato e ho trovato una risposta soltanto: non c'è nessun altro al posto al mondo in cui dovrei stare se non qui. E inizia così questa storia di Gaetano Di Gregorio, che poi racconta la malattia della figlia Claudia, comparsa un giorno d'improvviso con una crisi respiratoria di notte fortissima, improvvisa. Arrivammo in ospedale con l'ambulanza, la portarono in rianimazione, per 2 settimane non si svegliò e ci dissero che avrebbe avuto problemi irreversibili per il troppo tempo in cui il cervello era rimasto senza sangue. Era un venerdì e ricordo perfettamente tutto. Alzai la voce e mi dissero: va bene, facciamo tutto lunedì, perché chiesi ai medici di svegliarla. E da lì poi la lenta ripresa, questa malattia che appunto dice nessuno sa diagnosticare fino in fondo, e racconta Repubblica una storia già raccontata dallo scrittore Sandro Veronese, messa in scena da Nanni Moretti nel film Caos Calmo, no? E infatti c'è anche in qualche modo un'intervista proprio allo scrittore Sandro Veronesi, che commenta questa storia di questo signore, di questo meccanico che dice: ho lasciato tutto, apro l'officina solo d'estate quando mia moglie è a casa e dunque può accudire giorno per giorno, 24 ore al giorno, nostra figlia, e io sto qui. Perché voglio che mi veda, o comunque che in qualsiasi momento possa sapere che io sono al suo fianco. Questa storia la trovate su Repubblica, davvero una storia molto intensa, pagina 23, la racconta Giuliano Foschini. Vediamo le cose più, come dire, pratiche, più quotidiane, più consuete, anche nel farci arrabbiare. Sapete che da giorni abbiamo raccontato che avrebbero posto ieri un tetto a 240.000 euro per i dipendenti di Camera e Senato. Alla Camera l'hanno fatto e tutti i giornali raccontano questo. Il presidente della Camera Boldrini dice: questa è la buona politica, questo è quello che si è fatto, si risparmieranno 90 milioni nei prossimi anni. Ma tutti i giornali, ma non solo i giornali, anche, pensate, uno dei questori della Camera, i questori sono quei tre deputati che tengono i conti della Camera, il questore Stefano D'Ambruoso fa un'intervista ad Avvenire e racconta: ma che tagli, o meglio ci sono stati tagli, ma io non ho votato questi tagli perché si doveva tagliare di più, si doveva fare di più. E poi guardate cosa dice D'Ambruoso: tetto a 240.000 euro, ma va, calcolatrice alla mano. Nel 2015 un consigliere parlamentare con 30 anni di servizio avrà una contribuzione lorda di 301.061,17 euro, a cui si sommano gli oneri previdenziali 50.000 euro, l'indennità di funzione 7.200 euro netti l'anno, totale 360.000 euro l'anno. Ma allora questo tetto da 240.000 euro dov'è? Questa è la verità, non c'è. Non l'hanno messo formalmente. Infatti D'Ambruoso dice: io sono rimasto deluso, i numeri valgono più delle parole. In un momento in cui tutti invocano meritocrazia, non è condivisibile un adeguamento salariale automatico inoltre del 2,5% per tutti ogni due anni. Capite cosa hanno i dipendenti della Camera? E mi scrivono arrabbiati: un adeguamento del 2,5% automatico per tutti ogni due anni. Si doveva, per il rispetto dovuto al paese reale, fare di più. Queste sono le parole del questore Stefano D'Ambruoso. E infatti ci sono dei giornali come Il Giornale, che titola così: i finti tagli della Camera, spuntano gli incentivi. Oppure Il Fatto Quotidiano: i tagli al Parlamento, pure il questore dice che sono finti. Il questore appunto è D'Ambruoso. E ancora Il Messaggero: Camere, tagli con il trucco, gli stipendi sforano il tetto. Ora, per carità, non si vuole sempre subito mandare tutto in negativo, ma perché alcuni tagli sono stati fatti, ma il tetto da 240.000 euro non c'è. Parola di questore, ma vince il premio, mani sul volante, l'articolo che oggi ci fa più incazzare. Questo articolo del quotidiano Libero è Nino Sunseri, che racconta, pagina 10, i consiglieri abusivi, tra virgolette abusivi. È in Sicilia una furbata che ci è costata 100 milioni di euro in tre anni, perché la Sicilia, nella sua autonomia legislativa, non ha mai recepito una legge del governo Monti del 2011 che imponeva un tetto tassativo ai componenti delle assemblee elettive, consigli regionali, comunali, che devono fare una cura dimagrante, ma la falce con cui tagliare si è persa tra le correnti impetuose dello stretto di Messina. La Sicilia non ha mai applicato questa norma del governo Monti e quindi nei consigli comunali si continua a votare con il numero di consiglieri del passato. Il risultato è che ci sarebbero, se fosse stata applicata la legge del governo Monti, avremmo avuto molti consiglieri in meno ne avremmo eletti in questi anni 430 invece dei 628 che in Sicilia hanno eletto, e quindi tutto ciò ci è costato almeno 100 milioni di euro in 5 anni per i 198 consiglieri in più che si sono votati e che, se avessero applicato la legge Monti, non sarebbero stati votati. 100 milioni di euro sprecati in 5 anni, si dirà. Poca cosa, briciole rispetto agli 800 miliardi di spesa pubblica. Cosa volete che siano 100 milioni di euro? È così, e questo è il metodo che funziona, che va avanti in Italia. Cosa volete che siano 100 milioni di euro? Parassiti, ladri, ingrati, e cornuti e delinquenti. Dopo un pasto, soprattutto all'inomina. Digestivo dell'informazione. Ecco, appunto, mi sembrava che mancasse un finale. Va bene, allora, cari ascoltatori, oggi continuano i dibattiti sulla questione della riforma del lavoro, certamente. Certo, i dati che vengono sbattuti in faccia agli italiani, se vi siete appena svegliati, e oggi anche nei titoli dei giornali, sono dati non certo positivi. L'Istat dice che la disoccupazione giovanile è al 44,2%, è il record mai registrato. Una scarsità di posti di tendenza strutturale. L'Italia resta in deflazione, con a settembre meno 0,3% i prezzi al consumo, a livello annuo meno 0,1%. Le stime del PIL prevedono una decrescita dello 0,3% alla fine dell'anno. E questi sono dati non certo incoraggianti. Tutti i dati poi sono analizzati da Emanuele Scarci, per esempio a pagina 3 del Sole 24 Ore. Per questo, come racconta anche Mario Sensini sul Corriere, a pagina 3 il titolo è: a fondo del governo sull'austerity europea, niente manovra 2015, dopo 5 anni di manovre correttive, lacrime e sangue, solo quelle varate dal 2011 pesano sul bilancio 2014 per 64 miliardi, il governo Renzi allenta la morsa sulla finanza pubblica e, sfidando l'ortodossia europea del rigore, invocando non una ma due circostanze eccezionali che impattano sul bilancio pubblico, cioè la recessione e l'attuazione delle riforme, l'esecutivo ha deciso di posporre il pareggio di bilancio effettivo al 2017, di sospendere per un anno il prossimo il percorso di avvicinamento all'obiettivo. Dunque niente manovra nel 2015 che sarà dunque un anno di pausa, di respiro. Ci saranno interventi di stimolo alla domanda con la conferma degli sgravi fiscali per lavoratori e imprese, ma non ci sarà una correzione del deficit pubblico, che anzi verrà fatto scivolare dal 2,2% del PIL, dove si assesterebbe senza far nulla, al 2,9%, dunque un pelo sotto il tetto massimo del 3% imposto da Maastricht, che verrà comunque rispettato. La situazione dei conti è questa qui, cari italiani. In questo contesto c'è il dibattito che prosegue, come potete immaginare, dopo la direzione del PD, il voto favorevole alla riforma, sulla riforma del lavoro. Ieri ci sono stati talk show, Renzi è andato a fare un'intervista a Ballarò e ha detto: beh, intanto l'attacco più sferzante è stato Massimo D'Alema, che di lui ha detto Renzi: bisognerebbe inventarlo se non ci fosse. Ogni volta che D'Alema parla guadagno un punto di consenso, un punto percentuale. È davvero anche sprezzante in questa sua risposta. Comunque Renzi ha ribadito che la novità allo studio è quella del TFR in busta paga. Ne stiamo parlando, significa che per uno che guadagna 1.300 euro, con un altro centinaio di euro al mese unito agli 80 euro, inizia a fare una bella dote. Cioè Renzi ha fatto capire che per uno che guadagna 1.300 euro e che prende quindi anche gli 80 euro, si può arrivare con altri 100 dal TFR fino a 180 euro in più in busta paga. Però su questa questione del TFR i giornali ovviamente si interrogano, si dividono, pongono delle questioni. Per esempio il Secolo XIX fa tutta pagina 3 con Carlo Gravina a raccontare: TFR in busta paga, ma conviene davvero? chi prenderà l'anticipo rischia di rimetterci qualche euro. Dal provvedimento, tra l'altro, sono esclusi i dipendenti statali, questo già lo premettiamo, ovviamente tutto è allo studio. Ci sono tutti i calcoli, l'agricoltore che ha un reddito annuo da 16.500 euro, ha una quota di TFR all'anno di 1.222 euro, prenderebbe 611 euro in busta paga. Però ci sono le tasse, perché certo viene messo in busta paga ma è tassato al 23,5%, e quindi alla fine l'agricoltore dal reddito annuale di 16.500 euro, dai calcoli sul secolo XIX, arriva a mettersi 36 euro in più in busta paga al mese. Un metalmeccanico che prende 22.500 euro di reddito annuale, alla fine delle detrazioni tutto arriverà a avere 49 euro in più al mese. L'impiegato da 42.000 euro di reddito annuale arriverà a 91 euro al mese in busta paga, se ci fosse l'anticipo del TFR. Un quadro con un reddito annuale di 62.500 euro arriverà a 136 euro al mese con l'anticipo del TFR in busta paga. Queste sono alcune delle simulazioni. Il problema è che, appunto, intanto, come dice lo stesso Renzi, molte piccole imprese non avrebbero la liquidità per anticiparle. E poi c'è una tassazione superiore, qualcuno fa notare, e insomma le questioni sono aperte. Sono aperte le questioni del lavoro. Renzi dice la gente è con me, però è interessante che dopo questo scontro che c'è stato alla direzione del PD, come racconta Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, ora pare che Renzi voglia andare più al confronto in aula. La fiducia? E chi ha detto che metteremo la fiducia sul Jobs Act? Così ha detto Matteo Renzi ieri dopo il dibattito ai suoi collaboratori. Non c'è la stessa tensione che c'era per la riforma del Senato, ci vuole tranquillità, disponibilità al dialogo, e così l'invito del Premier ai suoi è quello di aprire al dialogo, discutere. Certo, guardate un po' Gianni Cuperlo, ex presidente del PD, intervistato da Giovanna Casadio a pagina 3 di Repubblica, dice: il confronto sull'articolo 18 non si è concluso. Io spero che lo voti tutto il PD, perché lo spirito è migliorare la riforma. Ho apprezzato alcuni toni di Renzi, ma qui conta la sostanza. Il reintegro per discriminazione è cosa ovvia. Bene la precisazione sui licenziamenti disciplinari, ma la riforma del 2012, solo due anni fa, non ha escluso il ricorso al giudice anche in caso di licenziamento economico manifestamente infondato. E mica era un gioco di parole, dice Cuperlo. Se in via di principio togli la possibilità al lavoratore di cercarsi un giudice a Berlino e stabilisci per legge che per qualunque licenziamento c'è solo l'indennizzo, tu stai dicendo a quel lavoratore che anche nel caso di una motivazione mascherata lui ha già perso in partenza, e non lo consolerà sapere che invece a Berlino un giudice per lui ci sarebbe davvero. Questa è l'analisi di Cuperlo. Anche Cofferati, che per la verità è un eurodeputato, quindi non è un deputato, ma dice fate muro, in un'intervista al Manifesto, intervistato da Antonio Sciotto: ora si deve fare muro in Parlamento contro il Jobs Act. Insomma, la tensione c'è, rimane, e bisogna capire che succederà. Tra l'altro vi segnalo anche un'intervista a Tommaso Nannicini, che è un professore della Bocconi, è diventato uno dei consulenti più stretti di Matteo Renzi sulla riforma del lavoro, è intervistato da Claudio Tucci sul Sole 24 Ore a pagina 7, racconta come il reintegro in azienda ci sarà solo nei casi estremi, racconta tutte le novità previste da questo Jobs Act, almeno nella formulazione che è uscita dalla direzione del PD. Poi ci sarà ovviamente il confronto al Senato. Certo, segnalo anche Luca Fazzo sul Giornale, pagina 6, va a studiare tutti i casi in cui ci sono stati dei reintegri. Il titolo è questo: ladri, sabotatori, disonesti, ecco i reintegri più assurdi. Lancia un mazzo di chiavi contro il padrone, licenziato. Dopo essere stato già colto a rubare in fabbrica, fa scattare un'altra volta il metal detector e rifiuta di farsi perquisire, riassunto. Accusa l'amministratrice delegata di prendere decisioni perché ha le mestruazioni, licenziato. Ruba sulla nota spesa della trasferta, riassunto. Manda un comunicato sindacale usando la mailing list aziendale, licenziato. Dà dell'ignorante all'amministratore delegato, riassunto. E poi c'è questa, colpisce con le tette la capo reparto dileggiandola perché è piatta, licenziata. Vabbè, Mauro Meazza, ce n'è di ogni tipo. Come c'è speranza vedi? Per tutti, c'è verrebbe speranza. Da dire. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a te. Diciamo che ci lascia, no, dei margini ampi, e dico a me, a te anche, in caso di, non so, dicessimo qualcosa perché di siamo poco felice. No. Abbiamo ancora speranza. No, come anche oggi, naturalmente, sul Sole 24 Ore, tu citavi già l'intervista a Nannicini, c'è anche il confronto poi con le dichiarazioni di Sacconi. Mi sembra che il faticoso equilibrio raggiunto da una parte rischi di essersi perduto da un'altra su questo Jobs Act. Vediamo, insomma, oggi dovrebbe essere una giornata, come potrebbe essere, caro Alessandro, naturalmente forse decisiva. Certo, e come non potrebbe non essere una giornata decisiva. Intanto è decisiva perché da oggi, già ti ho avvertito ieri, sei passati all'F24 online sopra i 1.000 euro e già ti ho detto tutto. E ti voglio anche dire che oggi con il Sole 24 Ore c'è un inserto in allegato dedicato ai nuovi principi contabili, che tu dirai, beh, allora, no, perché cambia la modalità di calcolo, cambiano diverse regole per il calcolo dei bilanci, per la valutazione delle aziende, quindi questo è molto importante, così come ieri hai visto, abbiamo un pochino interpretato il pareggio di bilancio rinviandolo un po' in avanti, e così anche le aziende non, purtroppo non avranno analoghe proroghe, ma hanno regole differenti a cui riferirsi. Vabbè, tutto sull'inserto che trovate oggi con il Sole 24 Ore. E stai attento a quello che metti su Facebook, ti vorrei dire. Ah. Perché nelle pagine del Sole 24 Ore di oggi puoi accorgerti che hanno definito che ci può essere la molestia. Anche via Facebook, se la tua pagina è pubblica, sì. Adesso qui senza che andiamo nel dettaglio, la pagina pubblica, la pagina privata, ma in sostanza un apprezzamento pesante su una pagina pubblica di una collega, un'amica, eccetera, può appunto, essere molestia. Vedi. E quindi attenzione a quello che metti su Facebook, sempre complimenti molto contenuti, mi raccomando, apprezzamenti contenuti, evitare le molestie, perché la piazza di Facebook è paragonabile a piazza pubblica. E dove ho letto tutto questo? Indovina un po' su Norme Tributi. Ma certo, ovviamente su Norme Tributi, dove tra l'altro, e ti è andata di lusso perché così non ho avuto il tempo di interrogarti, ma dove tra l'altro trovi anche ulteriori risposte alle domande dei lettori in materia di Tasi, e sappi che la Tasi ti aspetta, io te lo voglio dire, la Tasi aspetta molti di noi il 16 ottobre ed è lì che vigila in più di 5.000 comuni per il pagamento. La Tasi vi guarda. La tesi ci ascolta, potremmo dire, visto che siamo alla radio. Ale che sono il Gabibo, anch'io seguo la rassegna stampa di Alessandro Milan. Oh, sempre l'ascolto. Eccoci qua, un grosso abbraccio, come sempre, al nostro Gabibone nazionale. Mentre io vorrei andare sulla Stampa, perché la Stampa ha una pagina interessante sul tema della sicurezza, il tema degli stipendi delle forze dell'ordine e il mondo del calcio. Racconta tutto Francesco Grignetti a pagina 9 della Stampa. L'ipotesi è questa, più che un'ipotesi è un qualcosa che oggi verrà votata alla Camera, grazie a un'iniziativa del deputato del Movimento 5 Stelle Tancredi Turco, ed è questa: tasse sui diritti TV per pagare la polizia, Renzi dà il via libera. La decisione in sede politica è presa, oggi sarà ratificata dalla Camera. Alle squadre di calcio, oltre al balzello sui biglietti dello stadio, sarà imposto un secondo contributo ben più oneroso, cioè il 2% sugli introiti che le società di calcio guadagnano dalla vendita dei diritti televisivi. E siccome da questa voce il calcio professionistico introita circa 1 miliardo di euro all'anno, il conto è presto fatto. Il contributo destinato a pagare le ore di straordinario domenicale delle forze di polizia peserà per circa 20 milioni di euro. Sommati ai 4 milioni dell'altro contributo, quello del 3% sulla vendita dei biglietti, sono 24 milioni di euro di nuove tasse a beneficio dello Stato. Questo per pagare gli straordinari della polizia. Quindi l'idea è questa. Ovviamente le società di calcio si ribellano, la Serie A si ribella, come racconta sempre la stampa: al fisco diamo già un miliardo, le società sono sul piede di guerra, è stata convocata un'assemblea straordinaria. L'idea però è quella: far pagare alle società di calcio, tramite una percentuale sulla vendita dei diritti televisivi, quello che serve per pagare le forze dell'ordine che lavorano la domenica, spesso appunto per le partite di calcio con gli straordinari. Lo racconta comunque la stampa, mentre il giornale Libero e il Corriere della Sera si concentrano sulle parole che il sindaco di Roma, Ignazio Marino, ieri ha detto a Un Giorno da Pecora. Ma che t'ha combinato il sindaco Marino? Sono attratto dalle droghe. E già questo, insomma, è una frase, per carità. Eccolo qui, comunque, un caso sulle frasi di Marino. Ha detto: sono fortemente attirato da qualunque sostanza stupefacente, ma non ne ho mai utilizzata nessuna perché ho paura da un punto di vista medico, penso che possano far male. E vabbè, e questo è l'approccio personale. Ma poi sentite cosa aggiunge sul concerto dei Rolling Stones di recente a Roma. Mi sono molto interrogato quando abbiamo avuto qui in città i Rolling Stones, perché vedere questi signori che dicono di aver utilizzato qualcosa in passato, dicono di aver, vabbè, e vedere il batterista che ha quasi 75 anni e va avanti 2 ore e mezzo senza interruzione con un'energia fisica incredibile, beh, diventa poi difficile spiegare ai tuoi figli che non le devono prendere. Questa è la frase di Ignazio Marino. Il Corriere, con Ernesto Mericucci, la definisce una gaffa in piena regola, che addirittura non si capisce perché, aggiunge il Corriere, in teoria potrebbe costare querele milionarie. Comunque, parole al limite del consentito per Ignazio Marino. Come fai a spiegare ai tuoi figli, dopo che vedi suonare i Rolling Stones, che fa male le droghe? Questo è il senso dell'intervento di Ignazio Marino. Vabbè, vi segnalo per le notizie dagli esteri i tanti reportage da Hong Kong, dove c'è la resistenza al governo cinese, la situazione fino a questo momento di protesta abbastanza sotto controllo, ma si sa che in queste situazioni poi il rischio è che possa tutto degenerare da un momento all'altro. Tra l'altro, Repubblica con Marco Ansaldo, intervista pagina 13, il cardinale Joseph Zen, presule cattolico che da sempre fa paura a Pechino, che dice: ci hanno promesso la democrazia e ora la vogliamo. Se il governo cinese non risponderà in modo positivo, protesteremo in maniera ancora più forte, occupando il centro di Hong Kong. La situazione è questa: anni fa le autorità ci avevano promesso democrazia, invece oggi non ci siamo arrivati, non hanno mantenuto le promesse. Ora mi chiedo cosa succederà nel 2017, alle prossime elezioni. Noi crediamo nel dialogo, ma se il governo non ci sta, occuperemo la parte centrale della città e ci potrebbero essere anche delle perdite economiche, ma forse a quel punto ci ascolteranno. Questo il cardinale Zen, intervistato da Repubblica. Oh, attenzione, ma avete presente Fedez? Se vedete X Factor sapete di chi sto parlando, il rapper che ha inciso il brano 1 minuto e 28 secondi per Beppe Grillo. Cioè, oggi sul Fatto Quotidiano c'è il testo: ti fidi ciecamente, Repubblica non vedente, non si spiega, in pratica è la Repubblica cieca. Caro Napolitano, te lo dico con il cuore, o vai a testimoniare oppure passa il testimone. Dove sono i nastri dell'inchiesta? Si dice che Nicola Mancino scriva meglio con la destra. Vabbè, lo so, ho fatto scempio di Fedez, chiedo perdono. Non so il te, non so la musica. Dov'è la musica di questo testo? Non sono partito. Questo è il testo di Non sono partito, 1 minuto e 28. Fedez parla al Fatto Quotidiano, l'X Factor ce l'ha Di Battista, il deputato Di Battista del Movimento 5 Stelle, ma su Casaleggio serve chiarezza. Vabbè, vado velocemente per dirvi che il Corriere della Sera racconta con Massimo Gaggi che c'è un signore che rischia, 21 anni ha, rischia per aver dato un calcio a un gatto tutto immortalato in un video, un anno di carcere. È stato arrestato in America, rischia un anno di carcere per aver dato un calcio a un gatto. Se dava un calcio a un essere umano veniva lasciato con tante scuse via. Comunque la carta costa va al dibattito su Repubblica, una pagina su questo, si dice padrone o imprenditore? Ma per Dio, siamo nel 2014, Repubblica! Ma chi se ne frega! Mattino. Siamo qui alle 8:19 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, la scorsa settimana, se ricordate, abbiamo ospitato l'onorevole Gianluigi Gigli del Gruppo per l'Italia per parlare della proposta di legge sua e di altri colleghi per contrastare la prostituzione. La proposta di legge vuole inserire un nuovo reato nel codice penale, cioè il divieto di acquisto di servizi sessuali. In pratica si vuole punire i clienti delle prostitute, se addirittura recidivi fino a 4 volte si vuole prevedere anche il carcere, fino a un anno di carcere. Ed eravamo rimasti che avremmo fatto un confronto qui con chi dall'altra parte vuole invece, ha un approccio diverso al tema della prostituzione, vuole addirittura dall'altra parte legalizzare la prostituzione e quindi regolamentare questo fenomeno antichissimo, regolarizzare le lavoratrici, i lavoratori del sesso, con il risultato di guadagnarci anche dei bei soldini, perché possono essere tassate i lavoratori nel campo del sesso. Sono due approcci ovviamente antitetici che oggi mettiamo qui a confronto. Intanto, onorevole Gigli, ben ritrovato, eccoci qui. Buongiorno a voi, grazie dell'ospitalità, sono contento che ci sia questa possibilità, ecco, di confronto con la senatrice Patrizia Bisinella della Lega. Buongiorno senatrice, eccoci. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, due approcci ben diversi, eh. Intanto vi chiedo, domanda incrociata, lei senatrice che ne pensa della proposta di mettere addirittura, di prevedere il carcere per estreme recidive, prima ci sono multe raddoppiate, terza volta multa, poi alla quarta volta c'è il rischio anche del carcere per i clienti. Lo trovo un'esagerazione, davvero, lo trovo un po' fuori dal mondo questa proposta, francamente. Poi spiegheremo bene anche per me perché, per le conseguenze che può provocare questo. Creerebbe un clima di oscurantismo assurdo, non penso che sia una forma di stato poliziesco e di proibizionismo assoluto quello che va a contrastare un fenomeno che purtroppo da che mondo a mondo esiste e quindi secondo noi andrebbe invece in maniera molto più efficace contrastato. Peraltro questo aiuterebbe anche legalizzare, regolamentare un fenomeno che veramente è allarmante e preoccupante e aiuterebbe, come avviene in altri paesi, ricordo la Svizzera, ricordo l'Olanda, veramente ridotto e contenuto, e si può poi recuperare veramente un bel po' di soldi per le casse dello Stato attraverso una tassazione regolare. Allora, oscurantista e non è il proibizionismo che porta a questo, poi vedremo invece nel concreto la proposta della Lega. Onorevole Gigli, chiedo anche a lei che ne pensa, della proposta della parte avversa, se vuole, politicamente su questo tema, no? È quello di legalizzare. Credo che questo non è il mestiere più antico del mondo, ma è l'ingiustizia più antica del mondo. Credo che poco o tanto in ogni fenomeno di prostituzione ci sia dietro un atto di coercizione, un atto di pressione, talora un vero e proprio sfruttamento, talora violenza, talora addirittura riduzione in schiavitù. E allora l'obiettivo non è quello di creare uno stato di polizia, ma quello di arrivare a fare anche attraverso la legge un percorso educativo, un percorso che ha dimostrato di essere funzionale e l'ha dimostrato non in un modo, come diceva la collega, oscurantista, ma lo ha dimostrato attraverso un paese, civilissimi come la Svezia, come l'Islanda, si sta avviando la stessa Francia, non mi pare che siamo proprio nell'oscurantismo, e come lo stesso Parlamento europeo, voglio ricordare, con la mozione Hannibal nel febbraio di quest'anno proprio, a larga maggioranza ha voluto raccomandare l'adozione appunto del cosiddetto modello nordico. Modello svedese. Tra l'altro, a proposito di modello svedese, ci sta ascoltando un giornalista svedese, un collega, che si tratta di Åke Malm. Buongiorno e spero di averti pronunciato nella maniera corretta. Assolutamente, ecco, buongiorno. Perché si parla sempre di modello svedese, quindi mi interesserà capire. L'onorevole Gigli dice in Svezia per esempio si puniscono i clienti. Intanto Åke, è così, cioè si puniscono i clienti, e come si puniscono? Si puniscono e come? Devo dire che si può quasi dire che la cosa importante non è la pena in sé, ma il fatto che rende pubblico il fatto di essere preso con le dita nella marmellata, diciamo, e essere portato nei giornali come uno che va a acquistare sesso. Addirittura, cioè, perché viene riportato nei giornali? Cioè c'è sì, soprattutto. Mannaggia. Poi naturalmente se ci sono i VIP politici o altre questioni, queste sono notizie succulenti. Comunque il fatto della legge ormai si sa praticamente tutto, perché è dal 1999 che la legge esiste, e diciamo in modo svedese non è stata una introduzione semplice e veloce, è un grande lavoro che è durato 20-30 anni di studi e di discussioni su questo. E oggi come oggi c'è un assoluto d'accordo politico anche fra tutti i partiti. Sì. Per questa legge, che posso dire teoricamente può essere condannato anche uno acquistatore di sesso a carcere, ma fino adesso non è mai successo che nessuno ci sono le multe. No, ma devo dire che anche per la proposta dell'onorevole Gigli, nel caso di quarta recidiva c'è, diciamo, il giudice può dare un percorso di recupero in alternativa al carcere. Comunque, senatrice Bisinella, capisce che insomma sono due approcci davvero antitetici. Voi invece avete fatto anche i calcoli economici di quello che lo Stato, certo, potrebbe recuperare con le tasse. Si introduce anche il discorso, sì, a dire se è lecito ed è moralmente giusto lucrare su un'attività del genere, ma insomma vorrei il suo parere. Allora, innanzitutto bisogna fare un distinguo. Nessuno nega che quello della prostituzione sia un fenomeno allarmante che ha assunto delle condizioni e delle dimensioni drammatiche nel nostro paese, e che purtroppo sia anche collegato al traffico di persone, alla tratta di persone, addirittura con una forma vera e propria di riduzione in schiavitù, spesso anche di minori provenienti da paesi che si trovano in difficoltà, e che è aumentato anche con l'ondata continua di immigrazione clandestina che abbiamo nel nostro territorio. Quello che noi diciamo è, posto che con tutti i tentativi fatti, da quando poi è stata introdotta la legge Merlin, dal 58 in poi, che fece chiudere definitivamente le case chiuse, il fenomeno non si è ridotto, non si è risolto, anzi negli anni è peggiorato, al punto che oggi moltissime nostre città e moltissimi quartieri, di comuni grandi ma anche di comuni più piccoli, si assiste a questo fenomeno di degrado incredibile di vedere per strada circolare queste ragazze. Ribadisco, esiste una parte, una dimensione di chi, diciamo, esercita questa professione volontariamente nella propria abitazione, ma la stragrande maggioranza dei casi avviene anche in ore diurne ormai lungo le strade. Ma è proprio portando questo che contesta l'onorevole Gigli. Allora, cioè a dire noi che diciamo una cosa, certo, però allora che c'è invece costrizione laddove, dietro guardi, questo. Laddove si è agito inasprendo le pene, andando a colpire questo che propone l'onorevole Gigli, per carità, con tutto rispetto, andare a colpire i clienti, secondo me non farebbe che creare ancor più, aumentare ancor più la sfera di illegalità, e ciò che avviene in maniera ancora più promiscua, ancora più diciamo in situazioni di pericolosità. Perché non si può eliminare in questo modo, cioè chi cercherà comunque di avvalersi di questo tipo di prestazioni, come dire, aumentando e favorendo anche chi sfrutterà queste condizioni, appunto la sfera di illegalità e di criminalità organizzata. Insomma, ma su questo guardi, io allora, la capisco e devo dire aspetti, sono anche spiegare proprio sì. Scusi, e proprio brevemente il contenuto della nostra proposta, perché occorrerebbe far chiarezza. La nostra proposta di legge, perché vogliamo cercare di essere concreti e precisi, posto che il fenomeno c'è, cerchiamo la soluzione. Non dice che siamo a favore della prostituzione, noi diciamo, è stata depositata l'anno scorso in Parlamento, che l'esercizio della prostituzione è vietato in luoghi pubblici o aperti al pubblico, okay. È invece consentito nelle abitazioni private, sì. Previa addirittura, noi diciamo, comunicazione a un questore che terrà un registro per una sorta di monitoraggio, quindi in qualche modo impartendo subito una serie di regole che vanno rispettate. Sì, viene regolarizzato. Esatto, così, controlli sanitari, sono certo. Quelli, esatto, che quindi elimino il tema dello sfruttamento e riduzione in schiavitù delle donne, perché in questo modo sarebbero seguite, non si accompagnerebbe in questo circuito e non si favorirebbe la criminalità organizzata e lo sfruttamento. No, ma chiaro, lei dice addirittura questo servirebbe a stroncare quel fenomeno che invece l'onorevole Gigli dice è un po' innato nella prostituzione. Però, onorevole Gigli, effettivamente l'idea di un storicamente il proibizionismo, come ricordiamo la vicenda Chicago, Al Capone, cioè non ha mai gli Stati Uniti non ha mai stroncato un fenomeno, cioè laddove c'è una legge stringente questa cosa non ha valore di tipo proibizionistico, ma ha valore di tipo educativo. Come, ma perché uno Stato dovrebbe educare, mi perdoni, cioè, dobbiamo tornare allo stato etico che educa i cittadini. Lo Stato riconosce dei valori, tra questi c'è cioè il rispetto e la parità tra l'uomo e la donna, c'è la possibilità che il corpo non diventi merce, è lo stesso motivo per cui noi vietiamo, che ne so, la compravendita del sangue, perché lo Stato la vieta, perché riconosce che il corpo umano ha un valore. Però questo lo capisce che è soggettivo, cioè lo stabilisce lei che vendere il corpo sia immorale per alcune persone, non lo è. Quello che ho cercato di dirle è che non si tratta tanto dell'immoralità, si tratta della costrizione, talora della costrizione semplicemente del bisogno. Io voglio citare un dato che è noto e che è inoppugnabile: il grosso delle prostitute iniziano in età minorile, addirittura prima dei 16 anni. Io credo che non ci sia tutta questa autonomia di giudizio e questa capacità di esercitare liberamente quello che viene chiamato il mestiere. Ma sull'aspetto educativo vorrei, visto che ha la disponibilità di un giornalista svedese, di un collega svedese, chieda a lui se effettivamente la cosa ha funzionato, e ha funzionato, ripeto, senza mettere in galera nessuno, perché da quello che a me risulta è diminuito sia il numero delle prostitute, ma è diminuito anche il numero degli uomini che riferisce di aver comprato sesso, e soprattutto, come lui stesso ha detto, oggi vi è un larghissimo consenso, una percentuale, diciamo, nell'opinione pubblica che all'inizio di questa legge non c'era e che oggi la condividi. Vediamo un po', si tratta di punire più l'offerta, si tratta di punire la domanda. Sulle tasse, un'ultima parola, mi consenta. Io ho dati diversi da quelli che dice la collega. A me risulta che in Germania si siano lamentate le autorità stesse dicendo che questo fenomeno ha portato all'emersione del sommerso, la legalizzazione in misura minore rispetto alle previsioni. Questo è chiaro, cioè che è un fenomeno culturale, nel senso che magari non tutti coloro che fanno le prostitute o i prostituti oggi, di fronte alla possibilità di regolarizzare tutto questo, sarebbero contenti di far sapere all'intero mondo che fanno questo lavoro. Però prima della pubblicità, allora, ha avuto effetti questa legge svedese? Sono calate le prostitute? È calata la domanda? Oppure si fa tutto in maniera segreta? Che succede in Svezia? Ma credo che la domanda è rimasta, naturalmente, perché quella è una cosa naturale. No, quella, la cosa importante è, diciamo, che dopo 10 anni della legge una commissione parlamentare ha fatto uno studio molto interessante, cioè anche in inglese, che dimostra esattamente che la prostituzione per la strada è dimezzato, la prostituzione in genere è molto inferiore a quelle in Danimarca, per esempio, dove ha messo, in Norvegia è arrivato un pochino più tardi di noi, ma ha esteso la legge anche a chi compra stesso, per esempio in Filippine, in Thailandia o in Brasile. Se viene scoperto può essere, diciamo, condannato l'acquisto. Chi acquista quando torna in Norvegia. Sì, questo anche noi perché non siamo arrivati a questo punto ancora, però per esempio anche vedo qua nella città di Bergen in Norvegia, da quando c'è la legge del 2009 c'è una diminuzione molto forte, dice questa commissione, e si può dire che mentre diminuite in questo paese, negli altri è aumentato, perciò c'è evidentemente un spillover, come si dice, no? Sì, però c'è da dire, e riprendevo qui dopo la pubblicità, che anche la senatrice Bisinella ci ha spiegato che nella Lega non vogliono appunto non vogliono lasciare la prostituzione per strada, anzi vogliono togliere, nella proposta di legge c'è quella di toglierla dalle strade, quindi contrastarla, ma consentirla sotto anche i controlli da parte dello Stato in luoghi chiusi. 24 mattina. Allora, alle 8:40 minuti siamo qui ad affrontare i due diversi approcci al tema della prostituzione. L'onorevole Gigli del gruppo Per l'Italia, che prevede insieme a colleghi anche il carcere, colpire la domanda, mentre la senatrice Bisinella della Lega, e con la Lega vuole consentire l'esercizio della prostituzione anche se in luoghi chiusi, non certo in strada. Sentiamo gli ascoltatori. Luca da Milano ci chiama. Luca, buongiorno, che ne pensa lei? Buongiorno dottore, ma sì, io le volevo fare una domanda, ma sì, non trova che questa continua penalizzazione di comportamenti dei cittadini, in specie dei cittadini più tra virgolette normali, no? Sia come quasi una captatio benevolenza in vista magari di elezioni, oppure sia un qualcosa che non ha palesemente un motivo d'essere. No, ma che c'è, no, scusi, le elezioni per una volta sulla... È un dibattito molto antico e vecchio, le elezioni stavolta non c'entra niente. Sì, no, però è sempre per prendere qualche consenso politico, perché mi scusi, fonte del diritto sono anche le consuetudini, i comportamenti acquisiti. La prostituzione è veramente il mestiere più antico del mondo e non ci si può trincerare sempre dietro al fatto che ho capito, ma chi scusi Luca, ma certo, viene già punita la prostituzione minorile, questo sì, viene punita molto pesantemente e viene punita soprattutto lo sfruttamento della prostituzione, giustamente, molto giustamente. Però non ho capito, perché anche su questa cosa qui, come sulle droghe, sì, ma scusi Luca, ma quale delle proposte di cui si discute secondo lei è un modo per acquisire voi? Forse semplicemente le persone che sono qui, la senatrice Bisinella e l'onorevole Gigli, credono in quello che propongono. No, non ci credo. Ma bisogna fare come in Olanda. Ah, quindi ce l'ha con l'onorevole Gigli, lo considera bacchettone. È una cosa proprio come si può dire, palesemente sconsiderata, per cui troverebbero il consenso, ma nemmeno dei cattolici, di qualche bacchettone particolare. Ah, va bene, una proposta bacchettone, adesso ho capito. Di qualche ultra settennale, perché non ha una ratio, perché la maggior parte della prostituzione non si fonda sullo sfruttamento, non si fonda nemmeno sulla prostituzione. Vabbè, questo minorile. Però guardi, sono dati. Beh, Luca, se no poi sforiamo. La prostituzione minorile neanche citiamola, cioè quello è un reato, è una cosa gravissima, non prendiamola neanche in considerazione. Qui si sta parlando di prostituzione di persone che liberamente decidono di prostituirsi. Il problema è questo, secondo l'onorevole Gigli, sono in minima parte queste persone, in realtà è molto sfruttamento. Sentirei Antonio dalla provincia di Milano. Antonio, buongiorno. Buongiorno Milan, grazie per avermi contattato. No, grazie. La mia più che altro è una provocazione più che una domanda per l'onorevole Gigli, ma questo discorso qui del carcere per chi va a prostitute vale solo per i comuni mortali, quindi la povera gente, o vale anche per i politici, dato che negli ultimi anni o da sempre probabilmente... E dai Antonio, vale per tutti, su dai. Ma questo bisogna capire. Capisco la provocazione. Insomma, è una provocazione, esatto. È una provocazione. Onorevole Gigli, vale per tutti, visto che anche alcuni onorevoli... Se devo rispondere con la provocazione, mi sembra un po' ridicola. È chiaro che le leggi valgono per tutte. Quello che però vorrei sostenere, andando avanti col discorso del precedente, è che in realtà non sono così libere queste persone. Le faccio solo due esempi molto concreti. Ma come fa a saperlo lei? Ad Amsterdam è stato chiarito ancora che nel 2000 2007 nel distretto a luci rosse, il procuratore della Repubblica ha trovato che l'80% delle prostitute sono straniere provenienti da paesi in via di sviluppo. Secondo lei non c'è poco o tanto una costrizione dal bisogno? E quanto al fatto che questa roba, la legalizzazione, eliminerebbe la criminalità, di nuovo le cito il sindaco di Amsterdam, che nel 2003 ha affermato che la legalizzazione non è riuscita a prevenire il fenomeno della tratta, aggiungendo anzi che sembrava impossibile creare una zona sicura. Le Nazioni Unite pure sostengono che i Paesi Bassi sono la prima destinazione delle vittime della tratta di esseri umani, sono le Nazioni Unite a dirlo. Eppure il governo tedesco nel 2007 ha detto che la criminalità non è diminuita. Lei, se ho capito bene, vuole un mondo in cui una persona, una donna, un uomo, una ragazza, un ragazzo dal terzo mondo non debba sentire neanche il desiderio di trovare un modo per guadagnare le soglie anche prostituti, e deve fare una battaglia per eliminare le uguaglianze del mondo, le diseguaglianze del mondo. Cioè, purtroppo se in una situazione di bisogno una persona in maniera libera dice oh sapete che c'è, io posso guadagnare soldi così, non lo so, lei senatrice Bisinella la vede una cosa moralmente sbagliata? Allora guardi, io vedo che si fanno grandi discorsi di principio che non risolvono assolutamente il problema e ci si nasconde spesso dietro a grandi ipocrisie. Il dato vero è che il fenomeno esiste, è sempre esistito, e laddove si è cercato di colpire i clienti non ha certamente questo portato al risultato. Noi diciamo una cosa molto semplice, troviamo una soluzione, togliamo le donne dalle strade, liberiamo le città dai pericoli di ordine pubblico e sicurezza e dal degrado, regolamentiamo il sistema, tra l'altro noi abbiamo fatto un calcolo preciso, regolarizzando la prostituzione, quindi non in luogo pubblico ma in strutture private, si risparmia, si fa emergere tutto quello che gira nell'illegalità e si risparmia fino a dai 5 agli 8 miliardi, addirittura dicono 9 miliardi subito, di PIL in più, che aiuterebbe le povere casse del nostro paese, ridurrebbe la tassazione che invece imprese e famiglie sono costrette a subire in maniera sempre più alta. Facciamo pagare le tasse anche a loro come avviene in altri paesi altrettanto civili, dove funziona, come Svizzera, come Olanda, pagando loro queste tasse, regolamentando il settore, si produce più ricchezza per il nostro paese, si recuperano soldi per le casse pubbliche e quei soldi potrebbero essere utilizzati da subito ad abbassare le tasse che sono in capo, per esempio in questi giorni, ai cittadini che hanno il salasso della TASI più la TARI. Io vorrei ricordare che i cittadini italiani, le imprese italiane hanno subito negli ultimi anni e in quest'ultimo anno un aumento di tasse incredibile e sconsiderato. Insomma, recuperiamo un po' di soldi. Questo sistema, per esempio, questo sistema è certificato che da subito fa risparmiare fino a 8 miliardi di euro. Insomma, qui poi mercato illegale e li mette nella legalità. Sono certificato, sono anche delle stime, poi appunto bisognerà capire se tutti coloro che fanno la prostituzione, che esercitano questo lavoro, poi vogliono dichiararlo e continuare a farlo una volta che fosse regolarizzata. Però dopo il traffico voglio ripartire anche da Åke Malm, capire da giornalista svedese in Italia che ne pensa di questo dibattito, perché forse in Svezia hanno dibattuto, vorrei capire quanto e se a lungo, e poi le cose l'hanno fatta. Qui questo dibattito sul regolarizzare, non regolarizzare, colpire i clienti, colpire la domanda, colpire l'offerta, dura da quando c'è la legge Merlini, quindi insomma sono decenni e decenni e poi non si raggiunge mai un risultato. 24 Eccoci mattino. Qui, allora Åke Malm, che si fa in Svezia? Si è discusso a lungo oppure si è deciso ma a un certo punto? Si discute punto? Sempre, sì, non questo, è un argomento che non finisce mai di attrarre la discussione. Posso dire che qua si tratta soprattutto di una rivoluzione culturale, no? E quello può partire già da una convenzione delle Nazioni Unite del 49, che già allora diceva che prostituzione e il traffico di persone per essere utilizzate nella prostituzione sono incompatibili con la dignità e il valore della persona umana. Quindi anche la prostituzione. Partendo da questo non si arriva nemmeno a discutere su quelli che potrebbe essere una prostituzione legale, legalizzata, personale, diciamo, libero. Ma sono cambiate le cose, sono cambiate che i adulti dovranno avere il diritto di comprare e vendere stesso quanto ne vogliono. Ma se si capovolge di questo, diciamo, si parte da una prospettiva di eguaglianza e di diritti dell'uomo, allora si passa, diciamo, non da parte di chi vende, ma da chi acquista, cioè quelli che si usano del traffico, dei magnaccia, di chi compra. E allora questo fatto della distinzione fra il liberale o libero prostituzione non è rilevante, quello lo dice proprio l'ONU, lo dice l'ONU. Se lo dice l'ONU, intanto fatemi salutare un sindaco, si tratta di Silvana Rizzato, sindaco di San Martino Canavese in provincia di Torino. Buongiorno sindaco, eccoci qua. Buongiorno. Lei in agosto si è trovata, come altri sindaci, nella situazione di vedere comparire prostitute per strada, e che ha fatto? Ha fatto un'ordinanza che arrivava anche a colpire fino a 500 euro di multa coloro che si fermavano, cioè nel senso, bastava fermarsi da una prostituta, sì. 500 euro di multa. Euro, anche solo l'approccio così, perché poi la giustificazione che viene data in questi casi è chiedevo una strada, certo. Sì, chiaro, chiedevo un'informazione. E quindi ci siamo ritrovati ad avere nel nostro territorio, che insomma ha un 10 chilometri quadrati di territorio, ad avere 10-12 prostitute, quindi insomma era una cosa troppo... Per un piccolo paese immagino intollerabile, ma c'è stato qualcuno che è stato multato, sì? Sì, due multe le abbiamo fatte, uno anche alla prostituta, perché sull'ordinanza veniva richiamato anche il fatto di essere vestiti così, in abiti succinti. Sì. E quindi sappiamo benissimo che il più delle volte, insomma, si presentano così. Ma senta, che ne pensa di questo? Cioè, non sembra un modo, come dire, da sindaco io non voglio problemi di ordine pubblico sul mio territorio, e ci sta, insomma, il sindaco deve anche avere questo tipo di tutela. Ma dal punto di vista più generale, che ne pensa di questo dibattito, legalizzare o no? Ma guardi, sarei d'accordo, ho seguito la trasmissione con l'onorevole Bisinella, perché insomma è inutile che stiamo così ad essere ipocriti, a nascondere la testa sotto la sabbia, il problema c'è. E trovo assurdo che, io parlo da sindaco e anche da cittadino, dover lasciare sul nostro territorio questo degrado, perché è un degrado così alla vista, e poi anche, se vogliamo, di ordine così di immondizia, anche per il territorio, ecco. Quindi ci ritroviamo con delle montagne di rifiuti, che poi noi, essendo un piccolo paese e non avere delle grandi risorse, questo poi va... Comporta incidere anche sulle casse comunali, no? Ma chiaro. Guardi, abbiamo dei volontari che poi si mettono a fare queste cose, quindi a ripulire un po' le zone, insomma, dove le signorine vanno a prostituire. Allora, io, onorevole Gigli, guardi, arriva una proposta di Diego via SMS, dice: ma perché non unire le due proposte? Cioè rendere legale la prostituzione e invece pene severe a quel punto se si continua per strada, che è un po' anche quello che la senatrice Bisinella ci dice, oppure lei proprio non accetta l'idea che una persona possa andare a prostitute? Io credo che il discorso migliore l'abbia fatto il giornalista svedese. Sì. Si tratta di un problema di dignità della donna, che la cosa possa funzionare, lo ha detto lui stesso, in Svezia, in Norvegia, in Islanda sta funzionando, funziona. Per il resto io ho sentito molto populismo, quello delle tasse è veramente ridicolo, il discorso di un superamento dell'illegalità che non sta in piedi. Io ho fornito dei dati dell'Olanda e della Germania, sono dati ufficiali, se la collega della Lega si vuole, come dire, confrontare con dati ufficiali, lo venga a dire, non facendo populismo che si elimina la criminalità. Per il resto, visto che qualcuno ha parlato di ipocrisia, allora io dico che c'è l'ipocrisia l'ipocrisia anche di chi dice occhio non vede, cuore non sente, andate nelle case, purché non si veda per la strada, il degrado non c'è, il degrado rimane, e il degrado, ripeto, di chi poco o tanto è stato violentato nella sua persona. Lei vorrebbe un mondo senza prostituzione, perché la violenza continua poi dopo anche nei rapporti. Ma no, capito, anche ma questo è documentato. Onorevole, lei mi risponde a questo, lei vorrebbe un mondo senza prostituzione, un mondo ideale senza... No, vorrei un mondo che venisse educata piano piano anche a rispettarsi. Questo a rispettarsi. Sì. Senatrice Bisinella, su questo però diciamo un punto di contatto non c'è, non ci sono proposte di legge che possano insomma valere da questo punto di vista. Qui è un approccio culturale, senatrice. Ma certamente, recuperiamo subito risorse legalizzandole e destiniamole a misure di contrasto, a interventi sul sociale. Io dico solo questo, ci sono più di 80.000 ragazze per strada, togliamole dalle strade, liberiamo le città dal degrado, riapriamo le case di tolleranza, sottoponiamo quindi a dei controlli e legalizziamo, in questo modo recuperiamo risorse da investire anche lì, da investire. Noi abbiamo fatto una proposta precisa che prevede interventi sul sociale per contrastare il fenomeno e combatterlo, che inasprisce le pene per chi continua a esercitare in luogo pubblico e per chi sfrutta. Quello che noi diciamo è, posto che il fenomeno c'è, troviamo un approccio concreto che porti da subito dei benefici. Faccio notare un'ultima cosa: oltre a risparmiare 8 miliardi di euro, che ripeto sono un dato importantissimo in questo momento per le casse dello Stato, e mi spiace che l'onorevole Gigli dica che questo è un fronte ridicolo da sottoporre, la Lega Nord ha presentato un referendum, una richiesta di sottoscrizione al referendum ai cittadini, è stato il più votato, quello per l'abolizione della legge Merlin, abbiamo raccolto migliaia e migliaia di firme. Allora vogliamo renderci di conto anche di quella che è la richiesta che ci però si fermi qui, perché sennò sforo. Ringrazio tutti, il dibattito è aperto e ci sentiamo domattina alle 6.30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e gli astriti da politica.